Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Saggio biografico sull'Udi Magister Josef Knecht. Sull'origine di Josef Knecht non abbiamo trovato alcuna notizia. Come molti altri allievi della scuola scelta, o perdette presto i genitori, o l'autorità pedagogica lo tolse da un ambiente sfavorevole adottandolo. In ogni caso, gli fu risparmiato il conflitto fra scuola scelta e casa paterna, che a parecchi altri ha reso difficili gli anni giovanili e l'ingresso nell'ordine, e in certi casi fa di giovani molto dotati caratteri difficili e problematici. Se facciamo il tentativo di tracciare la vita di Knecht, vogliamo anche tentare di interpretarla. E se, come storici, dobbiamo lamentare che manchi qualsiasi notizia veramente attendibile sull'ultima parte di essa, ci siamo però sentiti incoraggiati a questa impresa proprio dal fatto che l'ultima parte della vita di Knecht è diventata leggenda. Noi accettiamo questa leggenda per buona e poco ci importa che sia un'eventuale pia invenzione. Come non sappiamo niente della nascita e dell'origine di Knecht, non sappiamo nulla della sua fine, ma non abbiamo neanche alcun diritto di ritenere che questa possa essere stata casuale. Fin dove ci è nota, noi vediamo la vita di Knecht chiaramente costruita a gradini, e se nelle nostre ipotesi sulla sua fine adottiamo volentieri la leggenda e le prestiamo fede, lo facciamo perché essa combacia perfettamente, quale ultimo gradino, con quelli precedenti. Della sua infanzia, cioè del tempo che precedette la sua ammissione alle scuole scelte, conosciamo un unico avvenimento, che però è importante e ha un significato simbolico. È infatti il primo grande appello rivoltogli dallo spirito, il primo atto della sua vocazione. Ed è significativo che questo primo appello non sia venuto dalle scienze, ma dalla musica. Questo piccolo brano biografico è dovuto, come quasi tutti i ricordi della vita personale di Knecht, alle note di un allievo del gioco delle perle, di un fedele ammiratore che lasciò in iscritto numerosi detti e racconti del suo grande maestro. Knecht deve aver avuto allora 12 o 13 anni. Era alunno di latino nella cittadina di Berolfingen, al margine della selva di Zaber, che si suppone sia stata anche la sua città natale. È vero che il ragazzo frequentava da qualche tempo la scuola di latino con una borsa di studio ed era stato raccomandato già 2 o 3 volte dal collegio degli insegnanti, particolarmente dal maestro di musica, all'autorità suprema affinché fosse ammesso alle scuole scelte, ma egli non ne sapeva nulla e non era ancora venuto a contatto con l'élite o addirittura coi maestri della suprema autorità pedagogica. Ed ecco che il maestro di musica, Knecht studiava allora il violino e il liuto, gli comunicò che fra non molto doveva arrivare a Berolfinger il Magister Musicae per un'ispezione all'insegnamento musicale. Cercasse dunque Josef di esercitarsi con diligenza e di non mettere a disagio se stesso e il suo insegnante. La notizia commosse profondamente il ragazzo che, naturalmente, sapeva benissimo chi era il maestro della musica, il quale non solo veniva, come i soliti ispettori per i controlli semestrali, da una delle regioni superiori dell'autorità pedagogica, ma era uno dei 12 semidei, uno dei 12 dirigenti supremi della veneranda autorità e, per tutto il paese, la suprema istanza in questioni musicali. Il maestro della musica, il Magister Musicae in persona, doveva dunque arrivare a Berolfingen. Nella seconda o terza ora di scuola, qualcosa avvenne. Si udì bussare alla porta. Il bidello entrò, salutò l'insegnante e disse che l'alunno Josef Knecht doveva presentarsi tra un quarto d'ora al maestro della musica. Badasse d'essere ben pettinato e di avere le mani e le unghie pulite. Knecht impallidì per lo spavento. Uscì dall'aula barcollando. Corse nella sua camerata, depose i libri, si lavò e pettinò. Prese tremando l'astuccio con il violino e il fascicolo degli esercizi e, con un groppo in gola, si recò nell'edificio annesso dove erano le sale di musica. Un compagno lo aspettava sulla scala e, indicando una delle sale, gli disse: «Devi aspettare qui dentro finché sarai chiamato!» Non dovette aspettare a lungo, eppure gli parve un'eternità. Nessuno venne a chiamarlo. Vide invece entrare un uomo, molto vecchio, come gli parve da principio, non molto alto, coi capelli bianchi, un bel viso chiaro, occhi azzurri, penetranti, il cui sguardo poteva incutere paura, ma era non solo penetrante, bensì anche sereno, di una serenità non ridente o sorridente, ma calma e radiosa. Egli strinse la mano al ragazzo, gli fece un amichevole cenno, sedette allo sgabello davanti al vecchio pianoforte e disse: «Tu sei Josef Knecht, vero? Pare che il tuo insegnante sia contento di te e credo che ti voglia bene. Vieni, facciamo un po' di musica insieme». Knecht aveva già tolto il violino dall'astuccio. Il vecchio diede il là. Il ragazzo accordò lo strumento e guardò il maestro ansiosamente. «Che cosa ti piacerebbe suonare?» L'allievo non sapeva rispondere, tant'era preso dal rispetto per il vecchio. Non aveva mai veduto un uomo simile. Esitando, prese il suo fascicolo e lo porse al maestro. «No, no, vorrei che tu suonassi a memoria, non l'esercizio, ma qualcosa di semplice che tu sappia a memoria. Per esempio, una canzone di tuo gusto». Knecht, confuso e affascinato da quel volto e da quegli occhi, non trovava risposta. Si vergognava della sua confusione e non sapeva spiccicar parola. Il maestro non insisté, ma con un dito accennò l'inizio di una melodia e rivolse al ragazzo uno sguardo interrogativo. Questi approvò con un cenno e intonò subito la melodia, che era una delle vecchie canzoni scolastiche. «Da capo», disse il maestro. Knecht ripeté la melodia che il vecchio accompagnò con una seconda voce. La vecchia canzone risuonò a due voci nella saletta. «Da capo». Knecht suonò e il maestro accompagnò con una seconda e una terza voce, sicché nella stanza la bella canzone risuonò a tre voci. «Da capo». E il maestro accompagnò con tre voci. «È una bella canzone. Suonala adesso in voce di contralto». Knecht obbedì, mentre il maestro, che gli aveva indicato la prima nota, lo accompagnava a tre voci e continuava a ripetere: «Da capo». Dopo un poco, il vecchio smise. «Basta adesso?» domandò. Knecht scosse il capo e ricominciò, mentre l'altro riprendeva l'accompagnamento a tre voci. E così le quattro voci tracciavano le loro linee chiare e sottili, discorrevano tra loro, si sorreggevano a vicenda, si intersecavano e si giravano intorno ad archi e figure serene, mentre il ragazzo e il vecchio non pensavano a nient'altro, si abbandonavano alle belle linee affratellate e alle figure che formavano, ai loro incroci, e presi nella propria rete continuavano a suonare, cullandosi leggermente, obbedienti a un direttore invisibile. Finalmente il maestro, terminata un'altra volta la melodia, si volse indietro a domandare: «Ti è piaciuto, Josef?» Knecht lo guardò, raggiante e pieno di gratitudine. Era tutto illuminato, ma non riusciva a parlare. Molti anni dopo, Knecht raccontò a uno dei suoi allievi che, uscito da quella casa, trovò la città e il mondo assai più mutati e incantati che se fossero stati abbelliti con bandiere e festoni, con nastri e fuochi artificiali. Aveva sperimentato l'atto della vocazione, che si può ben chiamare un sacramento. È l'atto per cui il mondo ideale, che fino a quel momento il giovane cuore aveva conosciuto soltanto per sentito dire o per averlo sognato nei suoi sogni ardenti, diventa visibile e si spalanca in un invito. A lungo andare, non poté rimanere nascosto che la visita del Magister Musiche non era stata né un caso fortuito né una vera e propria ispezione scolastica. Ora Knecht era piaciuto. Era piaciuto molto al vecchio maestro, che nella continuazione del viaggio ripensava a lui con piacere. Non aveva preso appunti né testimonianze nel proprio taccuino, ma portava con sé il ricordo di quel ragazzo fresco e modesto e, appena ritornato, scrisse il suo nome nella lista degli allievi esaminati personalmente da un membro dell'autorità suprema e trovati degni di essere accolti. Così, incominciando dall'intimo e sviluppandosi fino all'incontro e alla reciproca conferma fra dentro e fuori, la vocazione di Josef Knecht poté compiersi in perfetta purezza. Egli ne attraversò tutti i gradi, ne assaporò tutti i momenti felici o angosciosi. Senza il disturbo di improvvise scoperte e indiscrezioni, il nobile evento si compì. La tipica storia giovanile di ogni spirito nobile. Il dentro e il fuori procedevano in armonia e uniformità e si venivano incontro. Quando, alla fine di queste evoluzioni, l'alunno ebbe coscienza della sua situazione e della sua sorte, quando si vide trattato dagli insegnanti come un collega, anzi come un ospite del quale si aspetta la partenza da un momento all'altro, quando s'accorse che i compagni un po' lo facevano oggetto d'ammirazione o d'invidia, un po' di sospetto, e che anche alcuni avversari lo odiavano e schernivano, e gli amici di prima sempre più si staccavano da lui e lo abbandonavano. Questo medesimo processo di distacco e isolamento si era già compiuto da un pezzo dentro di lui. In fondo al suo sentimento, i maestri, più che superiori, andavano diventando colleghi. Gli amici di un giorno, compagni per un tratto di strada, destinati a rimanere indietro. Nella sua scuola e in città, egli non si sentì più tra i suoi pari né al posto giusto, ma tutto ciò era ormai permeato di una morte segreta, di un fluido irreale. Era diventato una cosa provvisoria, un abito frusto e non più adatto alla persona. Questo uscire da una patria fino allora armoniosa e cara, questo staccarsi da una forma di vita non più sua e rispondente a lui, questa vita dell'uomo che prende congedo ed è chiamato altrove, interrotta da ore di suprema felicità e di luminosa coscienza di sé, gli divenne verso la fine un grande tormento, una pressione, una sofferenza quasi insopportabile, perché tutti lo abbandonavano senza che egli fosse sicuro di non essere lui ad abbandonare gli altri, di non aver provocato con quel morire e con quello straniarsi dal proprio mondo caro e solito una propria colpa per ambizione e presunzione, per superbia infedeltà, per difetto d'amore. Questi sono i più acerbi fra i dolori che accompagnano una vera vocazione. Knecht, però, toccò in sorte di compiere questa evoluzione indisturbato e in perfetta innocenza. Quando alla fine il consiglio degli insegnanti gli comunicò l'onore che gli era fatto e la sua prossima missione alle scuole dell'élite, egli ne rimase sul momento molto sorpreso, anche se dopo un istante la novità gli sembrò nota e attesa da tempo. Siccome la vita di Knecht, per quel tanto che ne sappiamo, si svolse tutta in Castalia, in quella parte più tranquilla e serena del nostro paese montuoso che a suo tempo, con una frase di Goethe, era spesso chiamata la provincia pedagogica, cercheremo di tratteggiare brevemente questa celebre Castalia e la struttura delle sue scuole. Tali scuole, dette brevemente le scuole dell'élite, sono un sistema saggio ed elastico di vagliatura, col quale la direzione alleva i migliori ingegni raccolti in tutte le parti e scuole del paese per colmare i vuoti dell'ordine e di tutti gli uffici importanti nel campo pedagogico e scientifico. Le numerose scuole del paese, siano di carattere umanistico o tecnico-scientifico, costituiscono per più del 90% dei nostri studenti una preparazione alle cosiddette professioni libere. Si concludono con l'esame di ammissione all'università, dove si segue un determinato corso di studi per ogni specialità. È il noto corso normale dei nostri studenti, e queste scuole hanno esigenze piuttosto rigorose, eliminando possibilmente i meno intelligenti. Accanto o sopra a queste scuole sta il sistema dell'élite, al quale sono ammessi in prova soltanto gli alunni che maggiormente si distinguono per intelligenza e doti di carattere. Non vi accedono per esami, ma gli alunni dell'élite vengono scelti ad arbitrio dei loro insegnanti e proposti alle autorità della Castalia. I dirigenti e supremi insegnanti di questa élite, non già i professori universitari, costituiscono l'autorità pedagogica, alla quale spetta la direzione di tutto l'insegnamento e di tutte le organizzazioni spirituali del paese. Quando uno è alunno dell'élite, sempre che non faccia cattiva prova in qualche corso e debba essere rimandato alle scuole ordinarie, non può seguire studi professionali e di portata pratica. Ma tra gli alunni dell'élite si reclutano l'ordine e la gerarchia dell'autorità scientifica, dal maestro di scuola alle cariche più alte, cioè ai 12 direttori degli studi o maestri, e all'udi magister, il direttore del gioco delle perle. Per lo più, l'ultimo corso delle scuole dell'élite si conclude all'età fra i 22 e i 25 anni, e precisamente con l'ammissione all'ordine. Da questo momento, gli ex alunni scelti hanno a loro disposizione tutti gli istituti culturali e scientifici dell'ordine e dell'autorità pedagogica, cioè le università speciali ad essi riservate, le biblioteche, gli archivi, i laboratori, insieme a un vasto corpo insegnante, come pure le istituzioni del gioco delle perle. Chi durante gli anni di scuola rivela un particolare ingegno per date materie, per le lingue, per la filosofia, per la matematica o altro, viene fatto passare, quando ancora si trova nelle classi superiori delle scuole scelte, al corso che offre il migliore alimento alle sue doti intellettuali. La maggior parte di questi alunni finiscono col fare gli insegnanti della loro materia, nelle scuole pubbliche e nelle università, e anche quando abbiano lasciato la Castalia, rimangono per tutta la vita membri dell'ordine. Osservano cioè rigorosamente la distanza dai normali e, salvo che escano dall'ordine, non possono mai diventare liberi professionisti, come il medico, l'avvocato, il tecnico e così via, ma sottostanno tutta la vita alle norme dell'ordine, tra le quali vanno annoverati la nullatenenza e il celibato. Il popolo, tra beffardo e rispettoso, li chiama mandarini. In questo modo, la grande maggioranza degli ex allievi dell'élite trova la loro destinazione definitiva. Ma i pochi che rimangono, l'ultima e più oculata scelta delle scuole castalie, sono riservati a uno studio libero, senza limiti di tempo, a una vita spirituale assiduamente contemplativa.